Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Nelle città contemporanee, soprattutto le più dotate di servizi moderni, il sottosuolo è un intrico di fili, cavi, tubi, canali, tunnel. La manutenzione e il potenziamento di queste infrastrutture, per non parlare di una loro eventuale razionalizzazione, sono diventati quindi problemi sempre più complicati da gestire. Si capisce così molto bene l'utilità di un progetto europeo, Virgo, acronimo che sta per Registro Virtuale delle Infrastrutture Sotterranee, ed è un catasto del sottosuolo che verrà sviluppato da un team composto da imprese e università provenienti da 5 paesi europei, sperimentato da Regione Lombardia e dalle città di Braso in Romania e Oporto in Portogallo. Ne parliamo con Andrea Zaccone, dirigente settore reti energetiche e sottosuolo di Regione Lombardia. Buonasera Zaccone. Buonasera. Allora Zaccone, cerchiamo di descrivere questa piattaforma che poi sarà una specie di grande database, e quindi le chiedo, tanto per cominciare, che cosa ci butterete dentro? Sì, questa piattaforma, che parte appunto da un grande recipiente dove mettiamo i dati del sottosuolo, è stata in qualche modo già riempita parzialmente da Regione Lombardia negli anni. Noi quasi 10 anni che lavoriamo su questo. Che dati ci mettiamo? Ci mettiamo i dati di tutte le infrastrutture che noi oggi abbiamo nel sottosuolo: telecomunicazioni, acquedotti, gas, energia e quant'altro, teleriscaldamento per esempio, in modo tale da avere una conoscenza del sottosuolo per dare dei servizi. Una conoscenza che spesso è molto raffinata nel soprassuolo, molto meno raffinata nel sottosuolo, anche se le due cose invece si dovrebbero parlare molto di più. Ecco, ci fa un esempio di che tipo di servizi si possono immaginare a partire da questa piattaforma? I servizi principali che vorremmo cercare di gestire con Virgo sono per esempio il coordinamento di interventi. Più operatori possono operare sullo stesso tratto, per esempio di strada. Ecco, c'è la scena tipica che abbiamo visto tutti più volte nella vita: marciapiede appena rifatto, la settimana dopo arriva qualcuno, lo apre per mettere giù un tubo, no? Ecco. Perfetto, la distorsione del fare e disfare tutte le volte. Invece, conoscendo e pianificando i vari lavori, si può scavare di meno, risparmiare in termini proprio economici per quanto riguarda i gestori, ma in realtà risparmiare anche sulla tutela dell'ambiente, perché meno scavi si fanno, meno lavori ci sono, meno macchine si muovono e meno inquinamento c'è. Meno inquinamento, sì, poi soprattutto anche meno di servizi, no? Meno fastidi, per esempio. Per il cittadino molti meno di servizi. Anche perché, se ho capito bene, oggi non conosciamo bene tutti i tracciati di tutte le infrastrutture, no? Quindi capiterà anche che ci siano delle rotture accidentali, no? Sì, assolutamente. Uno dei problemi della non conoscenza del sottosuolo è proprio, durante i lavori, la possibilità di rompere un cavo, di rompere un tubo. Se questo poi è un tubo del gas, per esempio, va anche dalla sicurezza degli operatori e dei cittadini. In Francia si è sviluppato molto il catasto proprio per un incidente mortale del 98, mi sembra, che è andato appunto a creare delle vittime perché avevano rotto un tubo del gas e c'era stato uno scoppio. Senta, e alla fine di questo progetto, per un certo numero di città, a proposito, ci dica quali città della Lombardia sono coinvolte? Monza, Varese, Cremona, Perorò, si stanno aggiungendo Lecco e altre città. Ecco, sostanzialmente per ognuna di queste città ci sarà questo database su cloud, e questo database sarà standard, cioè le città italiane avranno un modo di descrivere queste infrastrutture analogo a quello che verrà usato nel resto d'Europa e così via. Assolutamente sì. Esiste già uno standard regionale. Questo standard regionale lo stiamo sviluppando tramite l'Agenzia per l'Italia Digitale a livello nazionale e tramite il progetto Virgo a livello europeo. Noi andremo a proporre un modello dati alla comunità europea che sia il modello dati per tutti gli stati membri. Ecco, senta, oltre al tema della manutenzione più razionale e della, appunto, pianificazione degli interventi di manutenzione, mi chiedo se c'è anche un tema di razionalizzazione delle reti. Sì, soprattutto quello del riuso, io direi. Il riuso delle infrastrutture è molto importante, insieme a quello del co-uso. Io ho in mente che nella città di Milano e nelle zone limitrofe ben 4.000 chilometri attualmente vengono... Di 4.000 chilometri di? di tubazione delle fognature viene riutilizzato per le telecomunicazioni, per la banda ultralarga. Questo potrebbe essere decuplicato, se non di più. Abbiamo doppioni, abbiamo tubi dimenticati e abbiamo tubi che in realtà sono conosciuti e potrebbero essere usati anche per un altro scopo. Grazie Andrea Zaccone. Grazie a voi. È tutto, a domani.